Il terzo anello, ad alta voce, I viceré di Federico De Roberto. Grandi cartelloni multicolori incollati per tutta la città annunziarono l'avvenimento. Meeting elettorale. Cittadini, domenica 8 ottobre 1882, alle ore 12 meridiane, nella palestra ginnastica, ex convento dei padri Pii Benedettini, il principe di Francalanza esporrà il suo programma politico agli elettori del primo collegio. Era una novità questa dei discorsi programmi. Le elezioni non si potevano più fare alla chetichella, in famiglia, come al tempo del duca d'Oragua. Ciascun candidato doveva presentarsi agli elettori, render loro conto delle proprie idee, discutere le questioni del giorno. Almeno è certo che andranno al Parlamento solo quelli che sanno parlare. Ma udire il principe di Francalanza discorrere in piazza come un cavadenti, lo spettacolo era veramente straordinario. Gli altri candidati tenevano i loro discorsi nei teatri, ma per quello di Consalvo v'era tanta aspettazione, piovevano tante richieste di posti, arrivavano tante rappresentanze dalla provincia, che nessun teatro parve sufficiente. La palestra ginnastica, che era il secondo chiostro del convento di San Nicola, grande quanto una piazza, aveva coi suoi archi, le colonne e le terrazze una cert'aria di anfiteatro. Era l'ambiente più vasto, più nobile, più adatto alla grandezza dell'avvenimento. E poi Consalvo, da cui veniva la scelta, aveva una sua idea. Egli andò a dirigere personalmente l'addobbo, ma intanto che i tappezzieri lavoravano a disporre trofei di bandiere e festoni d'Ellera e tende e ritratti, il principe si guardava intorno con un senso di stupore, sorpreso a un tratto dalle memorie della fanciullezza. L'enorme e nobile monastero, la signorile dimora dei padri gaudenti, l'aristocratico collegio della gioventù, era irriconoscibile. Dinanzi a quella devastazione, Consalvo pensava adesso con un senso di rammarico alla morte del mondo monastico, che egli aveva vista con vivo tripudio. Ma allora, rammentava, aveva 15 anni, era impaziente di prendere il posto che lo aspettava in società. Frattanto i preparativi si venivano compiendo. La domenica del comizio tutto fu pronto. Baldassarre, in redingote e cappello alto, con una coccarda grande come una ruota di mulino, andava e veniva, sudato, sbuffante, come 28 anni addietro, quando ordinava l'aristocratico cerimoniale dei funerali della vecchia principessa. Ma allora egli era servo stipendiato e adesso libero cittadino che interveniva a un meeting democratico e che prestava il suo appoggio al principe non per quattrini, ma per un'idea. Alla folla che voleva entrare ad ogni costo, diceva, alzando le mani, «Signori miei, un po' di pazienza, c'è tempo, ci vuole un'ora!» Era possibile lasciare entrare la ciurmaglia prima degli invitati. Ma alle 11:30 la resistenza fu impossibile. Dato ordine ai suoi di difendere almeno i posti riservati, lasciò aprire la terrazza e l'arena. In un attimo l'onda umana vi si rovesciò. Era ancora la folla anonima, il popolo minuto, ma a poco per volta cominciarono a venire le persone di riguardo, signori e signori eleganti, dinanzi alle cui carrozze s'apriva l'altra folla rimasta nel cortile esterno. Dalla palestra la folla s'era levata in piedi, i colli erano tesi, gli sguardi fissi all'arco d'ingresso. Squillarono ad un tratto le prime note della marcia reale, mentre apparivano le prime bandiere. E un urlo formidabile, un vero uragano d'applausi, di evviva, di grida confuse, scoppiò nel vasto recinto, riecheggiò tempestosamente tra l'altra folla che circondava il candidato. Consalvo avanzavasi, pallidissimo, ringraziando appena con un cenno del capo, assordato, abbacinato, sgominato dallo spettacolo. Dietro di lui, nuovi torrenti si riversavano nelle terrazze, nei portici, nell'arena, vincendo la resistenza dei primi occupanti. Ma tuttavia migliaia di mani applaudivano, sventolavano fazzoletti e cappelli. Consalvo, ad un cenno del presidente, si volse alla folla. «Concittadini, se la benevolenza dei miei amici vi ha indotto a credere che io possegga le doti dell'oratore e vi ha qui adunati con la promessa che udrete un vero e proprio discorso, io sono dolente di dovervi disingannare». La voce nitida, ferma, sicura, giungeva dappertutto, debole ma chiara anche negli angoli più remoti. «Io vi dichiaro, concittadini, che non posso, che non so parlare. Tale il tumulto di impressioni, di sentimenti, d'affetti che sconvolge in questo momento l'animo mio. Gli stenografi notarono. Benissimo. Concittadini, voi chiedete un programma a chi sollecita l'onore dei vostri suffragi. Il mio programma, in mancanza d'altri meriti, avrà quello della brevità. Esso compendiasi in tre sole parole. Libertà, progresso, democrazia. La mia fede, data all'alba della mia vita, quando i pregiudizi di casta che io conobbi, ma che non mi duole di aver conosciuto, perché ora sono meglio in grado di combatterli, mi vollero chiuso qui, tra questi muri. Erano i tempi in cui Garibaldi, liberatore, correva trionfalmente da un capo all'altro del feudo borbonico per farne una libera provincia della libera patria italiana. Gli stenografi smisero di scrivere. Tale uragano d'applausi e di grida si scatenò. Urlavano: «Viva Francalanza! Viva Garibaldi! Viva il nostro deputato!» «Concittadini», riprese quando fu ristabilita la calma, «io sono giovane d'anni e la vita potrà apprendermi molte cose e dimostrarmi la fallacia di molte altre e darmi dell'esperienza, quel senno maturo che ancora forse non ho. Ma quali che siano le vicende e le prove che l'avvenire mi serba, una cosa posso affermare fin da questo momento, sicuro che per volger danni o per mutar di forma non potrà venir meno. La mia fede nella democrazia. Questa fede mi è cara come cara al capitano la bandiera conquistata nella battaglia. Io non sono responsabile della mia nascita, né voi della vostra, né alcuno della propria, visto e considerato che quando veniamo al mondo non ci chiedono il nostro parere. Voi vedete che io non posso più rinunziare a questa fede. Essa mi è tanto più cara e preziosa quanto più mi costa. Permettetemi dunque di dirvi le mie idee in proposito. Disciolte le antiche parti parlamentari, non ancora si delineano le nuove. Io auguro pertanto la formazione e seguirò le sorti di quel partito che ci darà la libertà con l'ordine all'interno e la pace col rispetto all'estero. Di quel partito che realizzerà tutte le riforme legittime conservando tutte le tradizioni rispettabili. Di quel partito, insomma, che assicurerà nel modo più equo, per la via più diretta, nel tempo più breve, la prosperità, la grandezza, la forza della gran patria comune. Lo statuto può e deve essere migliorato. Questa necessità è intesa da tutti, dal popolo che reclama intera la sua sovranità, al re che riconosce la sua dal popolo. Qualche signora sbadigliava dietro il ventaglio, la gente che desinava l'una se la svignava. Ma finalmente, dichiarato che i problemi sociali sono nodi gordiani che nessuna spada deve tagliare, ma che l'amoroso studio e l'industria e pazienza possono sciogliere, l'oratore passava alla politica estera. L'uditorio si scosse un poco. Gli stenografi annotarono. Grandi applausi. Ma gli antagonismi di razza si sarebbero un giorno composti. Allora sarebbero sorti gli Stati Uniti d'Europa. Subito dopo passò alla questione delle finanze. Adesso si vedevano larghi vuoti nell'arena e nei portici, specialmente nelle terrazze dove il sole arrostiva i crani. «Ma questo non è un programma elettorale, è un discorso ministro», sogghignavano alcuni. L'uditorio era schiacciato dal peso di quell'erudizione e la luce troppo chiara e il silenzio del monastero ipnotizzava la gente. A un tratto alcune seggiole rovesciate dalla gente che scappava fecero un gran fracasso. Tutti si voltarono, temendo un incidente spiacevole, una rissa. L'oratore fu costretto a tacere un momento. Riprendendo a parlare, la voce gli uscì rauca e fioca dalla strozza. Non ne poteva più, ma era alla perorazione. «Grato a tutti voi dell'indulgenza con la quale m'avete ascoltato, io finisco invitandovi a sciogliere un triplice viva. Viva l'Italia! Viva il re! Viva la libertà!» Consalvo non ne poteva più, sfiancato, rotto, esausto da una fatica da istrione. Parlava da 2 ore. Da 2 ore faceva ridere il pubblico come un brillante, lo commuoveva come un attore tragico, si sgolava come un ciarlatano per vendere la sua pomata. E mentre la marcia reale, intonata per ordine di Baldassarre, spronava l'entusiasmo del pubblico, nel gruppo degli studenti canzonatori domandavano: «Adesso che ha parlato, mi sapete ripetere che ha detto?» Giorni l'ansietà di Consalvo divenne febbre scottante. La riuscita non poteva mancare, ma egli voleva essere il primo. La sera della vigilia c'era al palazzo un vero pandemonio. Tutti domandavano: «Il principe? Dov'è il principe?» Ma la gente di casa rispondeva che egli era presso lo zio Duca, il quale stava poco bene. E il domani, costituiti gli uffici, cominciata la votazione, insieme con la notizia della vittoria del principe, perché gli elettori dichiaratisi per lui erano migliaia, venivano apposta dalle villeggiature, si facevano trascinare alle urne sopra le seggiole se non potevano andare coi loro piedi, una voce si sparse, dapprima sorda, poi sempre più alta fra i seguaci di Lisi: «Tradimento! Tradimento!» A palazzo, verso il tramonto, arrivarono i primi telegrammi delle sezioni di provincia. Il posto del principe nelle prime somme oscillava fra il secondo e il terzo. Consalvo pallidissimo aveva la febbre. Quando arrivarono gli ultimi telegrammi e gli ultimi messi con le cifre definitive, non vi fu più dubbio. Egli era il primo, con 6.043 voti. Veniva dopo Vazza, con 5.989. Gli altri erano a distanza di migliaia di voti. Giulente non ne aveva più di 700. Era notte alta, ma il palazzo di Francalanza, illuminato a giorno, risplendeva da tutte le finestre. Una folla sterminata traeva a congratularsi col primo eletto del popolo. Per le scale era un brusio incessante, nelle sale non si respirava. Stanco di veder gente, per assaporare altrimenti il proprio trionfo, Consalvo pensò di far visita ai parenti. Lasciata la casa dello zio, egli andò dalla sorella. Il portinaio gli disse che la duchessa nuora era uscita con la carrozza di campagna, insieme col monsignor vicario. Egli salì tuttavia e trovò la vecchia duchessa con padre Gentile. «Teresa è andata a bel passo a visitare la serva di Dio. Sai bene quella contadinella dei miracoli. Monsignor vescovo non ha permesso a nessuno questo genere di visite. Ha fatto un'eccezione solo per tua sorella». Contenendo a fatica il sorriso, Consalvo sorse in piedi. «Non sai che Ferdinanda sta male?» gli disse la duchessa. «Che ha?» «Un'infreddatura. Ma alla sua età tutto può essere grave. Perché non vai a trovarla?» Egli ascoltò il consiglio. E arrivando in casa della vecchia, in quella casa dove era venuto tante volte bambino, a vedere gli stemmi, a udire le storie dei viceré, ad abbeverarsi dell'albagia aristocratica, un muto sorriso gli spuntò sulle labbra. «Se gli elettori avessero saputo...» Donna Ferdinanda, udendo che c'era di là Consalvo, rispose alla cameriera con voce arrochita dal raffreddore. «Lascialo entrare». Egli le andò incontro premurosamente, si chinò sul lettuccio di ferro, quello di tant'anni addietro, e domandò: «Zia, come sta?» Ella fece un gesto ambiguo col capo. Uno scoppio di tosse la fece soffiare come un mantice. Quando calmossi, disse con voce affannata, ma con accento di amaro disprezzo: «Tempi obbrobriosi, razza degenere!» «Vostra Eccellenza giudica obbrobriosa l'età nostra, né io le dirò che tutto vada per il meglio, ma è certo che il passato par molte volte bello solo perché è passato. L'importante è non lasciarsi sopraffare. Io mi rammento che nel 61, quando lo zio Duca fu eletto per la prima volta deputato, mio padre mi disse: «Vedi, quando c'erano i viceré, gli Uzeda erano viceré. Ora che abbiamo i deputati, lo zio va in Parlamento». E consideri un poco. Prima, ad essere nobile, uno godeva di grandi prerogative, privilegi, immunità, esenzioni di molta importanza. Adesso, se tutto questo è finito, se la nobiltà è una cosa puramente ideale e non di meno tutti la cercano, vuol forse dire che il suo valore e il suo prestigio sono cresciuti? In politica, Vostra Eccellenza ha serbato fede ai Borboni e questo suo sentimento è certo rispettabilissimo, considerandoli come sovrani legittimi. Ma la legittimità loro da che dipende? Dal fatto che sono stati sul trono per più di 100 anni. Di qui a 80 anni Vostra Eccellenza riconoscerebbe dunque come legittimi anche i Savoia. Si rammenta Vostra Eccellenza le letture del Mugnos?» continuava Consalvo. «Orbene, immaginiamo che quello storico sia ancora in vita e voglia mettere a giorno il suo teatro genologico al capitolo della famiglia Uzeda. Che cosa direbbe? Gli antichi Uzeda erano commendatori di San Giacomo e ora hanno la commenda della corona d'Italia. È una cosa diversa, ma non per colpa loro. E Vostra Eccellenza li giudica degeneri. Scusi, perché?» La vecchia non rispose. «Io e mio padre non siamo andati d'accordo ed egli mi diseredò. Ma il vicere Ximenes imprigionò suo figlio, lo fece condannare a morte. Vostra Eccellenza vede che per qualche riguardo è bene che i tempi siano mutati. Noi siamo troppo volubili e troppo cocciuti ad un tempo. Guardiamo la zia Chiara, prima capace di morire piuttosto che di sposare il marchese, poi un'anima in due corpi con lui, poi in guerra oltranza. E guardiamo la zia Lucrezia che, viceversa, fece pazzie per sposare Giulente, poi lo disprezzò come un servo e adesso è tutta una cosa con lui, fino al punto di far guerra a me e da spingerlo al ridicolo del fiasco elettorale. Guardiamo in altro senso la stessa Teresa. Per obbedienza filiale, per farsi dar della santa, sposò chi non amava, affrettò la pazzia ed il suicidio del povero Giovannino. E adesso va ad inginocchiarsi tutti i giorni nella cappella della Beata Ximena, dove arde la lampada accesa per la salute del povero cugino. E la Beata Ximena che cosa fu se non una divina cocciuta? Io stesso, il giorno che mi proposi di cambiar vita, non vissi se non per prepararmi alla nuova. Ma la storia della nostra famiglia è piena di simili conversioni repentine, di simili ostinazioni nel bene e nel male. Io farei veramente divertire Vostra Eccellenza scrivendole tutta la cronaca contemporanea con lo stile degli antichi autori. Vostra Eccellenza riconoscerebbe subito che il suo giudizio non è esatto. No, la nostra razza non è degenerata, è sempre la stessa. Buongiorno, sono ancora Fernando Ascitelli. Dopo la lettura riprendo le considerazioni sul romanzo I Viceré. Ma chi sono nel romanzo I Viceré gli attori principali e le stracche comparse, come si può dire? Paradossalmente si è vista una ipertrofia in personaggi che apparentemente non sono quelli principali. Il principe Giacomo e suo fratello, il Contino Raimondo, appaiati nella successione, appaiono più nell'ombra rispetto all'enormità, ad esempio, di Don Blasco, il monaco, e anche della sorella di questi, Donna Ferdinanda. Il primo, destinato al convento, invece di acclimatarsi su quel sentiero spirituale, aspira a possedere. Egli è straordinariamente mondano. Per una sorta di rancore, egli è immerso nella vita e nella lotta dei sentimenti che riguarda tutti. Dunque, più che la preghiera, secondo me, egli accarezza la vita. Donna Ferdinanda, detta la zitellona, che è la sorella, ricordiamolo, di Don Blasco, pare muoversi quasi intruppando il mondo e si immagina un donnone dipinto da Gadda, mascolina, e con tanto quasi di alluce valgo. Essa esprime lo stesso rancore del fratello, Don Blasco, e malgrado le disponibilità appena di vitto e alloggio assegnatele dal padre, diverrà una donna ricca, acquisirà degli immobili e canterà l'antico e i bei tempi andati. se si esclude l'amore, possiamo dire che la sua vita può anche risultare vittoriosa. Accanto a queste due figure, secondo me, che sono apparentemente secondarie, ve n'è un'altra che appare più timidamente. Ci riferiamo al cavaliere Eugenio, che è un fratello sia di Don Blasco e di Donna Ferdinanda, che riappare a palazzo dopo molti anni. Egli ha abbracciato la carriera militare, ma si è distaccato proprio dai luoghi degli Uzeda. Dunque riappare e propone ai suoi parenti di sottoscrivere la sua opera, l'Araldo Siculo. Nelle sue intenzioni dovrebbe documentare in questa opera le vicende delle più grandi famiglie nobili siciliane dalle origini fino al momento in cui l'azione si svolge. Ebbene, malgrado sia stanco, emaciato, impoverito, cercherà questi prestiti ai fratelli, i quali invece lo respingeranno e dunque non avrà il minimo sostegno. Questo voler scrivere una storia della nobiltà siciliana lo si può avvertire anche come un fatto poetico, forse è una figura autentica quella del cavaliere Eugenio, smarrito Don Chisciotte che appare in un angoletto di una tela qualsiasi. Dunque, questi sono i personaggi che incuriosiscono e allarmano nel romanzo dei Viceré. Questi personaggi come Don Blasco, come Donna Ferdinanda, mai una parola a favore, mai un pensiero conciliativo, affettuoso. C'è invece in loro una fedeltà al denaro, alla vita. Nel caso di Don Blasco, che è un monaco, questo fatto è sorprendente. E comunque questa fedeltà, lo ripeto, al denaro, alla vita, ce li fa sentire straordinariamente contemporanei. E ciò che si rivendica con la patente di nobiltà è proprio quel desiderio di aver mano libera sul subruso. Lisa Natoli ha letto I Viceré di Federico De Roberto, edizioni Mondadori, postfazione di Fernando Acitelli, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Lidia Riviello, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it